Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06491750. Quando sono le 20:08 diamo spazio alla sigla di Allegro con Fuoco, sempre qua gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allegro con Fuoco che apre sempre con la sua Lode al comunismo di Bertolt Brecht, nell'arrangiamento di Hans Eisler e per la voce di Carmen Maia Antoni. Dunque a tutti voi un buon ascolto. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das Schwer zu machen di Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06491750. Dunque abbiamo aperto con la sigla, seguita subito da una musica che avete appena ascoltato, quella di Art to Me di Alessandra Celletti, e eseguita e scritta da Alessandra Celletti, che casualmente abbiamo oggi ospite in studio, e appunto che con lei appunto vorremmo parlare, vorremmo conoscere rispetto a cosa abbia ispirato le note di questa musica, che sono così, sembra una musica semplice ma anche ben costruita. Quindi se vuoi puoi anche prendere. Guarda, io di solito quando compongo non lo faccio mai molto razionalmente, infatti non scrivo le mie musiche come, diciamo, fanno i compositori, quelli veri, ma mi metto al pianoforte e lascio che succeda qualcosa, per cui compongo direttamente suonando sulla tastiera. E mi ricordo esattamente proprio la sensazione di quando ho suonato questa musica per la prima volta, perché sembrava veramente una cosa un po' magica per me, perché non dipendeva da me, nel senso che veramente vedevo le note che venivano fuori così, e io mi ricordo questa sensazione di contentezza mentre le suonavo, per cui dicevo: ma che carine queste note, però veramente sembrava quasi una cosa che non venisse da me, non mi apparteneva, per cui questa cosa era ancora più sorprendente e ancora più bella in realtà. Senti, ma quindi questo è un tuo lavoro composto, e vogliamo dire, per esempio, quali sono le note che iniziali di questo lavoro? Si bemolle, sol, e è abbastanza cromatico, per cui forse è quello che dà questa sensazione un po' sempre malinconica ma anche dolce, che è un po' forse una caratteristica di molte mie composizioni, questo miscuglio di dolcezza e di malinconia un po'. Va bene, ma abbiamo parlato dunque e parliamo con Alessandra Celletti. Ricordiamo che appunto Alessandra non è la prima volta che viene in radio, sei stata nostra ospite qualche anno fa, sì, poi sei anche venuta in radio, mi pare, con il martedì femminista autogestito. Esatto, credo anche quello forse era un paio di anni fa, era in occasione del Lady Fest, che è un festival femminile, insomma, underground, che c'è stato un paio di anni fa qui a Roma, e ero venuta qui a presentarlo. E oggi, insomma, è tornata con noi con Allegro con Fuoco. Dunque, intanto salutiamo tutti quanti e tutte quante stanno ascoltando in questo momento le frequenze di Onda Rossa, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, le frequenze e il web, che appunto con il quale è possibile ascoltare mediante lo streaming la nostra carissima radio, quella su ondarossa.info, oppure insomma strumenti radiofonici, macchina o qualsiasi cosa che possa catturare il segnale. E dunque ci ascoltiamo sempre qua dai studi di Radio Onda Rossa, sempre dal 56 di Via dei Volsci, un altro pezzo sempre di Alessandra Celletti che abbiamo oggi qua in studio. Facciamo ascoltare un pezzo che differisce alquanto da quello di apertura, e lo vogliamo introdurre con qualche parola. Titola Burning, ossia bruciando, per cui già la parola forse del titolo spiega un po' l'atmosfera che ho voluto dare con questo brano. Fa parte di un album che si intitola Way Out, dove avevo voluto accostare al suono del pianoforte anche il ritmo della batteria, delle percussioni, e anche fare questo azzardo di cantare. Pur non essendo io cantante, ho voluto sperimentare, insomma, la bellezza anche del canto, però questo brano è soltanto pianoforte e batteria. Sì, una commissione interessante che adesso ci andiamo ad ascoltare, sempre sintonizzati su 87.9, sempre Radio Onda Rossa. Insomma, è un ottimo sposalizio questo della batteria e il pianoforte, che non si sente tutti i giorni. Anche dal vivo mi piace tantissimo suonare in realtà con la batteria, è proprio una sensazione molto forte in cui ci si sente veramente sostenuti mentre si suona. Quindi sì, è un'esperienza che vorrei anche ripetere in realtà. D'accordo, quindi sempre qua dagli studi Onda Rossa. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo, questa volta non è lei, è un pezzo tratto che la vede come, solo come, se si può parlare così, insomma, fare brutto, dire solo, come autrice, esecutrice della ginnopedia di Satie. Dunque ci andiamo ad ascoltare sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre naturalmente ondarossa.info sul web. Dunque Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza, praticamente sì, c'è stato un piccolo problemino tecnico, nel senso abbiamo qua presente la nostra compositrice, pianista Alessandra Celletti, e abbiamo tentato di farvi sentire la sua voce, ma per un disguido tecnico non si è sentita. Quindi eccola qua, ve la cedo al microfono immediatamente, così sentite la sua voce direttamente da lei. Eccomi qua, pare che parlavo ma che in radio in realtà non si sentiva, però era in realtà tutto studiato per creare un po' di suspense e far aspettare e rendere più bello questo momento in cui finalmente vi parlo. No, scherzi a parte, c'era stato un problema con il microfono, per cui quello che ho detto prima non si è sentito e non saprete quindi mai cosa ho detto. Comunque facciamo un breve assunto su quello che abbiamo detto. No vabbè, dunque, prima appunto ci siamo un po' divertiti a sentire dalla sua voce com'è che aveva composto e aveva dato vita ai suoi pezzi, cosa che l'ha ispirata. E poi con il primo brano che abbiamo ascoltato, poi il secondo, quello là con la batteria, e dove abbiamo sentito questa bellissima commistione tra questi due strumenti, la batteria e il pianoforte, il suo pianoforte, e quell'ultimo pezzo che abbiamo appena ascoltato, questo qua di Satie, e il pezzo che la vede appunto come esecutrice materiale. E comunque niente, introduciamo questa volta dalla sua viva voce il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare, che è Night Flight, e fa parte del mio ultimo album, che si intitola Above the Sky. E in questo album ci sono alcuni brani scritti da me per pianoforte o anche per altri strumenti, uniti invece a composizioni di autori che mi stanno particolarmente a cuore. Tutte le composizioni sono legate un po' da questo filo conduttore che è il cielo, e questa si intitola Night Flight, volo di notte. E noi ve la facciamo subito immediatamente ascoltare. Thank you. di onda rossa 87900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio sul web ondarossa.info. Beh, insomma, ci siamo un po' ripresi dall'iniziale problema che c'è stato, insomma, il bello della diretta che ogni tanto si fa sentire e ritorna un po' a complicarci la vita. Però comunque questo era il pezzo di Night Flight, che di Alessandro Celletti, del suo nuovo album. Mentre tu suggerivi un pezzo successivo, dici pure. Sì, si intitola There It Rains, significa è lì che piove. Ed è un pezzo che ho scritto con il pianoforte e poi anche con il contributo di Nicola Lesini, che è un bravissimo sassofonista romano, e Luca Venitucci alla fisarmonica, quindi è composto in trio. Ed è scritto come ricordo praticamente di una giornata passata con la mia insegnante di pianoforte vecchissima, che era una giornata che pioveva e guardavamo fuori dalla finestra e lei insisteva che pioveva soltanto lì dove batteva la luce di un lampione. Io provavo a spiegarle che in realtà quando piove, piove dappertutto, ma magari la luce fa vedere un punto preciso. Lei diceva no, è solo lì che piove, e da lì ho composto questa musica. Ve la facciamo subito ascoltare, sempre qua dai microfoni di Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza per Roma e per Lazio sul web ondarossa.info. Sempre un buon ascolto. Thank you. La Vionda Rossa, dunque, Alessandra Celletti, accompagnata da questi due contributi della fisarmonica e del sassofono di Nicola Lesini, che appunto abbiamo stato anche lui ospite qua nei nostri studi per un approfondimento sulla sua musica. E Alessandra, in questo momento che cosa è in programma, diciamo, per i prossimi giorni, i prossimi mesi, allora, nella sua vita? Che allora, guarda, dopo, musicalmente parlando, diciamo, dopo domani, cioè sabato, e vado a suonare a Milano, dove c'è questo festival che si chiama Piano City, che è molto bello perché per 3 giorni Milano sarà letteralmente proprio invasa dai pianoforti. Credo ci saranno 200 pianoforti in giro per la città e anche altrettanti pianisti a suonarli. E quindi io a mezzogiorno in punto suonerò alla stazione Garibaldi di Milano, proprio dentro la stazione, con un pianoforte a coda lì. E poi c'è una cosa a cui tengo particolarmente, perché il 6 giugno, che oltretutto è il giorno del mio compleanno, per cui per me sarà una cosa molto molto speciale, andrò a Padova, nel carcere di Padova, dove potrò suonare, autorizzata dal direttore, che appunto ha autorizzato questa mia partecipazione musicale, e ci sarà un grande convegno per l'abolizione dell'ergastolo, e mi sento proprio partecipe di questa cosa, perché sto cercando nel mio piccolo di fare qualcosa per sostenere questa battaglia contro l'ergastolo. E oltretutto una notizia proprio nuova di oggi, che il detenuto al quale appunto sono legata da una corrispondenza ormai da qualche mese, Carmelo Musumeci, che è condannato all'ergastolo ostativo, proprio ieri ha ricevuto una declassificazione dall'alta alla media sicurezza, e quindi questa notizia oggi mi rende particolarmente contenta. Sì, sono certamente notizie buone, perché certo non rappresentano la liberazione per coloro che si trovano dentro un carcere, costretti. E poi, insomma, Radio Onda Rossa è particolarmente sensibile su questo tema. Abbiamo anche, pensa che la trasmissione che ci segue è in Noctibus Panis, praticamente Noctibus Panis è condotta da un compagno, da un amico, Alberto, che si trova in questo momento in carcere perché è stato, insomma, condannato un numero spropositato di anni per piccoli inezi, appunto, per le ingiustizie quotidiane a cui ci obbliga in questo stato. Noi diciamo sempre siamo tutti detenuti in attesa di giudizio, perché appunto come capita, appunto, ci sta il rischio di andare incontro a certe situazioni. E infatti Radio Onda Rossa è una tra le poche radio, appunto, che dedica i suoi saluti, e a parte gli ascoltatori e le ascoltatrici, le compagne e i compagni, ma anche a tutti coloro e tutte coloro che sono privati della propria libertà personale, tutti coloro che sono in carcere. Io tengo sempre a precisare tutti i compagni e le compagne, il proletariato imprigionato, perché appunto chi è che sta in carcere sono i proletari. E certamente non è che andiamo a difendere noi i ricconi o quella che ci avevano fino a poco tempo prima lo yacht, e poi si sono trovati davanti a quattro mura, e poi magari, ecco, sono quelli che vanno sempre a finire, come si dice, che se la cantano subito perché pur di non stare là dentro. Invece, tra l'altro, ci dicevi che Carmelo è stato condannato a questa pena pesantissima, perché praticamente uno che appunto non ha continuato la sua pena, i suoi anni, quanti anni si è fatto? 23 anni, e appunto non ha goduto dei vari finti benefici che ti danno, perché appunto si è tenuto tutto per sé, giustamente, perché si dice a Roma chi fa spia è figlio di Maria, invece molti la fanno e vanno incontro ad altre cose più simpatiche. Comunque non ci interessa di costoro, noi niente, vogliamo dedicare sempre le nostre trasmissioni, tutta la programmazione della Radio Onda Rossa, anche a tutte coloro che sono in carcere, oppure, come occorre sempre precisare, anche coloro che sono condannati agli arresti domiciliari oppure alla latitanza, perché appunto chi vive in condizioni di libertà a volte non è proprio una libertà che potrebbe insomma essere migliore se fosse svincolata da certi cavilli che le portano a vivere certe situazioni. Comunque, sempre dagli 87.9, sempre la Onda Rossa, ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo da un altro album di Alessandra, The Golden Fly. E quindi ci andiamo ad ascoltare la traccia numero 2, sempre Onda Rossa, sempre gli 87.9. Thank you. di onda rossa, insomma, delle note accattivanti queste qua di Alessandra, che niente, adesso penso che ci sta salutando, quindi voleva introdurre il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare, che è la traccia numero 11, giusto? Quindi sì, è un brano che si intitola Star Milk ed è composto da un compositore minimalista inglese contemporaneo, si chiama Lawrence Ball, è un compositore che ho conosciuto di persona qualche anno fa, e perché mi ha invitato anche a suonare ad un festival di musica contemporanea che organizza a Londra. E appunto ho conosciuto le sue composizioni, che sono veramente molto affascinanti proprio perché sono un punto proprio nel cielo, e questa composizione sembra proprio una scia luminosa che si muove nel cielo, Star Milk, e quindi ho cercato proprio di dargli una sonorità che richiami proprio l'apertura proprio dello spazio. È un brano molto molto lungo e molto lento, però piano piano ti conquista, insomma ti trascina dentro questa scia luminosa. Va benissimo, dopo questa meravigliosa introduzione sicuramente sarete insomma curiosi di sentire quanto le vostre orecchie recepiscano di questo, di quanto stavo detto da Alessandra, che ci saluta quindi. Sì, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto. Quindi Star Milk. Thank you. Radio Onda Rossa 87.900. Quindi abbiamo ritrovato qua in radio una nostra vecchia conoscenza, appunto Alessandra Celletti, che ci ha presentato questi suoi lavori, appunto, e anche tratto da questo suo ultimo album, che sfumiamo adesso per passare ad un altro ascolto, sempre qua dalle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info, senza naturalmente tralasciare la fonte vitale di questa radio, che è appunto il suo cuore pulsante, che è il numero di conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci numero 56 00 185, Roma, che è appunto la maniera per far sì che questa radio sopravviva nell'etere dal 1977, e che, in quanto insomma, l'unica, una delle poche radio che esistono ancora, che non fanno alcun tipo di pubblicità, non hanno sovvenzionamenti e non sono garantite da nessuno, se non da chi la segue, da chi l'ascolta, da chi la sostiene, da chi ci lavora tutti i giorni, e attraverso le sottoscrizioni, che possono essere fatte attraverso questa forma del conto corrente oppure anche attraverso la formula che è presente in internet per sostenere la radio, andando sul sito ondarossa.info, cliccando sul sostienimi, ci sono tutte le spiegazioni rispetto alla questa forma di sostentamento, non ultima quella di venire qua in radio, di vedere gli studi, visitarli, questo piccolo buchetto qua che sta a San Lorenzo a Roma, che però insomma dà molto a questa città, all'Italia, non per niente è la voce, appunto, è la voce dei senza voce, di chi appunto non trova spazio sulle fonti di informazione ufficiali che ci sono appunto in giro per le varie reti televisive, radiofoniche o internet o giornali e giornalacci vari. Dunque ci ascoltiamo come ultimo pezzo un pezzo, ci piace anche un po' tagliare, fare questi salti proprio negli anni e nella qualità della musica. Passiamo da questo ascolto che ci stiamo facendo, passiamo dalle note di Alessandra Celletti a Dmitri Shostakovich, ascoltandoci dal primo movimento allegro del suo concerto numero 2 in Fa maggiore, opera 102, e ci andiamo ad ascoltare la prima traccia, appunto l'allegro, e sempre un buon ascolto, sempre le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre sull'etere attraverso il sito internet ondarossa.info. A voi un buon ascolto. Radio Onda Rossa, dunque, penso che si presenti da solo Dmitri Šostakovič con questo suo stile molto personale che appunto lo contraddistingue dalla maggior parte delle composizioni della sua epoca. Era questo il concerto numero 2 per pianoforte orchestra in fa maggiore, opera 102, di cui abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro. Era il pianoforte di Ingrid Jacobi e alla direzione era Charles McCarras con la Royal Philharmonic Orchestra. E questo, per quanto ci riguarda, l'ultimo brano, abbiamo un saluto che facciamo a tutti coloro che stanno ascoltando. Un saluto speciale che vogliamo fare, dedicato a tutti quanti, a tutte quante, e specialmente a chi ci segue ed è privato della propria libertà personale. E un saluto che ci viene dalla bacchetta di Arturo Toscanini, quando all'epoca diresse l'orchestra nella interpretazione dell'Internazionale. E con questo salutiamo, dopodiché metteremo una sigla e la nostra carissima trasmissione che segue, che abbiamo anche commentato prima con Alessandra, In Noctibus Panis, sempre del nostro carissimo Alberto, che sappiamo che ci segue tutti i giovedì attaccato alla radio, sicuramente a quest'ora, ma non solo, ma durante il tutto, credo, il corso della programmazione di Radio Onda Rossa. Dunque, un saluto a te e Alberto, e prendi questa, è anche dedicata a te. E ce la rimettiamo anche da capo. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio. Dunque, il nostro saluto, spero sia andato a buon fine, sicuramente era alla direzione Arturo Toscanini. La musica la conosciamo tutti, la stiamo cantando da una vita, è l'Internazionale. E quindi vi lascio alla sigla che apre e che chiude questo nostro appuntamento radiofonico del giovedì dalle 20 alle 21. Sempre a voi, dunque, una buonissima lode al comunismo di Bertolt Brecht, nella musica di Hanns Eisler e nelle parole di Carmen Maglia Antoni, con la quale salutiamo tutti coloro e tutte coloro che hanno ascoltato la nostra trasmissione. Salutiamo Alessandra Celletti, che ci è venuta a trovare dopo diverso tempo, appunto, che non l'avevamo più sentita in questo appuntamento radiofonico qua d'Allegro con Fuoco, e che abbiamo appunto piacere di ospitare. E un grande saluto a tutti quanti voi, a tutti quanti voi che avete ascoltato, che avete chiamato, che ci avete tenuto compagnia con i vostri trillini e che ci sostenete anche. E un abbraccio sempre più forte a tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, tutti i compagni e le compagne, il proletariato imprigionato o costretto alla latitanza o costretto agli arresti domiciliari. A tutti voi e a tutte voi un buon ascolto, sempre con Radio Onda Rossa. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Ist vernünftig, jeder versteht ihn. Ist leicht. Du kannst ihn begreifen, ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen, aber wir wissen, ist das Ende der Verbrechen. Ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Ist das Einfache, das schwer zu machen.